sta dove il sole non splende sempre, sta dove qualcuno leva le tende, corre, forse perché il rap non gli prende, forse perché il rap non gli prende niente, sta dove il sole non splende sempre, sta dove qualcuno leva le tende, corre, forse perché il rap non gli prende, forse perché il rap non gli prende niente. Come contare le ore sul palmo, come capire che restare calmo sembra difficile, ma per un anno ho visto di tutto, ma adesso mi armo. Per esempio di tempo che è lento, scorre ma non immagina che tutto vola per causa del vento che spazza parole che non hanno re. Resti tra noi come il cielo d'estate, vedo che state a sentire cazzate, basi minate mirate alla base dell'ade, chi vuole correre cade, strade con le luci, polvere di fate, chi spende minuti alle dita sul fate, tutti muti dopo le minchiate, ora concludi le tue scene già. Sta dove il sole non splende sempre, sta dove qualcuno leva le tende, corre, forse perché il rap non gli prende, forse perché il rap non gli prende niente. Sta dove il sole non splende sempre, sta dove qualcuno leva le tende, corre, forse perché il rap non gli prende, forse perché il rap non gli prende niente. Aspiri e pensi, ma il senso dov'è? Nei sentimenti più freddi non c'è. Se non mi senti vuol dire che menti, lamenti del tempo non fanno per me. I gotta evit come Doji, reduci suoni su sterili beat, credici soli ma siamo già tanti quanti, bastano a fottere un clip, dammi 60 secondi e poi salta, dammi un minuto per dirti che basta, dammi la forza per ridere in cassa, dalla chi in cassa, colpi in faccia, alla faccia, un po' che non ragiono, spero che piaccia al time come sono. La tua faccia da poco di buono alimenta sto fuoco che brucia se stone. Sta dove il sole non splende sempre, sta dove qualcuno leva le tende, corre, forse perché il rap non gli prende, forse perché il rap non gli prende niente. Sta dove il sole non splende sempre, sta dove qualcuno leva le tende, corre, forse perché il rap non gli prende, forse perché il rap non gli prende niente. Signal me questo, chill on memoria. Teach them rock, we gotta teach them rock.